giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età. Gorizia in testa nell'indice che riguarda i giovani tra i 18 e i 35 anni. 13 imprenditori cinesi della provincia di Pordenone denunciati dalla Guardia di Finanza per la presentazione nelle dichiarazioni fiscali di operazioni inesistenti. Coldiretti inaugura Udine la sua nuova sede. Per l'occasione in Friuli il presidente nazionale dell'associazione sulla categoria l'incertezza dei dazi. Il referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, le ragioni del sì e del no, i contenuti dei 5 quesiti referendari. A Gorizia Prefettura, Vigili del Fuoco presentano la terza edizione dell'iniziativa di formazione e informazione Carso non Arso, nata dopo gli incendi del 2022. Entra in vigore la modifica ai disciplinari del prosciutto di San Daniele che consente l'utilizzo di maiali più grandi fino a 180 kg, soddisfatta l'Associazione Allevatori. Preso il via a Trieste la 14ª edizione del Master Universitario in Economia e Scienza del Caffè, promosso da Illy. Presentata la nuova mostra che prenderà il via in Leggio il 6 giugno per concludersi il 9 novembre. Il tema è ricchezza, dilemma presente. Comincia oggi la 5ª edizione di Estoria Film Festival, la sezione cinematografica del Festival Internazionale di Storia di Gorizia che quest'anno sarà dedicato al tema delle città. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettig. C'è molto nord-est nelle tre top ten delle classifiche dell'indagine sulla qualità della vita per fasce di età, in edicola oggi col Sole 24 Ore, che misurano il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. La provincia di Bolzano svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65. La provincia di Gorizia invece si conferma per il secondo anno consecutivo in testa nell'indice rivolto ai giovani che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra i 18 e i 35 anni, inseguita da Bolzano, Cuneo e Trieste. Gorizia, quest'anno capitale europea della cultura transfrontaliera, è una città di frontiera, è una città universitaria. Le sue performance migliori sono legate al numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai giovani residenti, seconda su 107 province, ma anche al lavoro e quarta nelle trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato e vanta una delle più basse età medie della donna al parto del primo figlio, 31,6 anni rispetto alla media nazionale di 32,6, ma quest'ultimo dato è probabilmente legato all'alto numero di donne straniere che vivono a Monfalcone e che diventano madri più presto. Le tre graduatorie verranno incluse nella classifica di fine anno, la 36ª edizione della classifica appunto sulla qualità della vita. Quella cronaca, 15 imprenditori cinesi, tra cui i titolari di 13 imprese attive in provincia di Pordenone, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per la presentazione nelle dichiarazioni fiscali di costi relativi a operazioni inesistenti per oltre 10 milioni e mezzo di euro. L'indagine è stata coordinata dall'Ufficio di Venezia della Procura Europea, autorità giudiziaria competente a perseguire i reati di carattere economico-finanziario che attentano alle risorse dell'Unione Europea. Le 13 aziende avevano inserito nella loro contabilità fatture per oltre 10 milioni e mezzo di euro, a cui corrisponde un'IVA pari a 5 milioni e mezzo, emesse da una serie ricorrente di operatori economici, per gran parte con sede in Lombardia, formalmente intestati ai loro connazionali, ma in realtà riconducibili a un'unica regia. Le indagini hanno appurato che le decine di fornitori altro non erano che scatole vuote, create solo per evadere l'IVA e abbattere il risultato d'esercizio su cui le clienti pordenonesi avrebbero dovuto pagare le imposte dovute allo Stato. Le centinaia di fatture incriminate dovevano infatti documentare l'acquisto da parte delle 13 aziende denunciate di abbigliamento e altra merce in realtà proveniente con canali non tracciati dalla Cina, ostacolandone agli organi accertatori la reale ricostruzione del percorso per l'inesistenza in Italia di ogni struttura o riferimento. I 14 amministratori delle 13 società sono stati denunciati per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false, mentre il principale ideatore della frode, un altro cittadino cinese, è stato segnalato per l'emissione dei documenti soggettivamente inesistenti. Inaugurata a Udine la nuova sede regionale di Coldiretti a Palazzo Schiavi, un edificio costruito a inizio Novecento, ristrutturato e riaperto dopo 15 anni di chiusura. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il presidente nazionale dell'associazione Ettore Prandini e il presidente della regione Fedriga. 13.000 gli iscritti a Coldiretti in Friuli Venezia Giulia che devono affrontare l'incertezza dei dazi statunitensi. Ne abbiamo parlato con il presidente regionale Martin Figeli. Oggi a Udine l'inaugurazione della nuova sede della Coldiretti di Udine del Friuli Venezia Giulia nel rinnovato Palazzo Schiavi, ovviamente però quello che sulla bocca di tutti è la nuova marcia indietro di Donald Trump sui dazi. Proprio questa notte ha annunciato che fino al 9 luglio rimarranno i dazi come sono attualmente, cioè al 10% e dunque non più al 50% minacciato nei giorni scorsi a partire dal 1 giugno. Che periodo è questo con tutto questo tira e molla sui dazi per voi? Ma sicuramente è un periodo di grande incertezza, soprattutto perché è difficilissimo programmare i lavori, è difficilissimo fare un cronoprogramma che appunto possa aiutare le nostre aziende a esportare e a vendere il vino. Oggi c'è già un'incertezza anche da parte degli importatori stessi che proprio non sanno più come comportarsi e quindi questa situazione crea un periodo di grande smarrimento che si ripercuote indubbiamente sul lavoro della gente ma anche sulle vendite. Al presidente regionale di Coldiretti, Martin Figel, chiediamo anche come sta in generale il settore dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia oggi. Ma io direi che il settore sta abbastanza bene per quanto riguarda anche certi settori, soprattutto l'allevamento sta andando bene, il settore lattiero-casario anche. C'è chiaramente ancora molto da fare per quanto riguarda il settore cerealicolo, anche se abbiamo delle nuove opportunità per le nostre aziende in regione, vedi la neocostituita Consorzio Agrario d'Italia, che può essere veramente un grande progetto di filiera per dare appunto quel valore aggiunto in più alle nostre aziende. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La decisione del presidente Donald Trump di bandire da Harvard gli studenti internazionali ha creato il panico negli ambienti universitari statunitensi. In Europa però si aprono nuove opportunità. In che modo il sistema scientifico triestino sta pensando di intercettare la popolazione studentesca e i ricercatori in fuga? Ho una collaboratrice che ho sentito proprio 2 giorni fa all'MIT e mi diceva che più che preoccupazione c'è panico, nel senso che non si sa cosa possa succedere il giorno dopo. Ci sono già stati dei tagli abbastanza ingenti di decine di migliaia di euro che hanno portato alla chiusura di progetti, quindi alla chiusura della possibilità di fare anche per esempio conferenze sui risultati ottenuti, e stanno correndo ai ripari almeno per salvare ricercatori e dottorandi e dottorande che rischiano il posto. Siamo troppo piccoli per approfittare di questa crisi per attirare ricercatori qui? Non siamo così piccoli perché appunto siamo un'area di ricerca molto, molto potente, e in particolare poi abbiamo questi contatti con le istituzioni internazionali delle Nazioni Unite che possiamo sfruttare nelle due direzioni, quindi per sviluppare sia ricerca qui, ricerca di alto livello, sia anche per collaborare col sud globale e portare quindi una cooperazione che non sia solo allo sviluppo ma anche di ricerca e di sviluppo della scienza in particolare. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'intervista di Francesca Terranova avete sentito Federico Dogo, fisico e ricercatore dell'Università di Trieste, che proprio oggi ospita un convegno da lui organizzato dal titolo La diplomazia scientifica e la cooperazione internazionale nella pratica. E ora andiamo a Pordenone, dove sono in corso alcune iniziative organizzate dalla CGIL. Parliamo del referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. CGIL in campo contro il caporalato con un presidio organizzato dalla FLAI davanti alla prefettura di Pordenone. Obiettivo: chiedere l'attivazione dei tavoli territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e sull'immigrazione. Dina Sovran, segretaria generale FLAI CGIL Pordenone. In questi tavoli si possono fare le denunce sul caporalato, sullo sfruttamento e parimenti su quello dell'immigrazione, per esempio sul rilascio della residenza. Questi ragazzi vengono saccheggiati dai loro caporali anche per chiedere l'ospitalità o la residenza, cioè gli viene chiesto un importo economico molto alto. I comuni dovrebbero attivarsi e rilasciare loro la residenza fittizia, ma i comuni non lo fanno. Di qui anche l'invito a votare sì ai referendum. Tutti gli stranieri lavorano in una filiera di appalti. La sicurezza nel mondo degli appalti è un tema molto importante. Se pensiamo che qua per esempio danno i fitofarmaci mentre i ragazzi stanno lavorando sulle vigne. Se questi, come è successo, stanno male, chi risponde di questo infortunio? Nessuno. E poi c'è anche il tema della cittadinanza, perché se io non ho una residenza stabile che posso dimostrare sul territorio, posso stare qua anche 20 anni, ma io non potrò mai chiedere la cittadinanza. E invece la cittadinanza io credo che sia un diritto avere se ho tutti i requisiti previsti dalla norma, anche in tempistiche un po' più brevi. Per il no, Maria Sandra Telesca di Italia Viva. Votiamo convintamente no ai referendum sul lavoro, ai referendum che hanno l'intento di abrogare parte del Jobs Act. Pensiamo che oggi, a 10 anni di distanza, anche sia sbagliato pensare e dire ai cittadini che con il sì si tornerebbe all'articolo 18. Votare sì vuol dire tornare alla legge Monti-Fornero e quindi con minori tutele per i lavoratori. Pensiamo che questo referendum abbia un sapore troppo ideologico, quando invece avremmo bisogno di pensare ai veri problemi, e quindi noi votiamo no a questo referendum, convinti che invece si debba lavorare per migliorare oggi le condizioni dei lavoratori, che sono diverse da quelle di 10 anni fa. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora riepiloghiamo in questa scheda i contenuti dei quesiti referendari. I 5 referendum abrogativi per cui siamo chiamati a votare l'8 e 9 giugno puntano a cancellare singole parti di leggi che già esistono. Chi vota sì vota per la cancellazione, chi vota no chiede che rimangano valide le norme esistenti. 4 quesiti riguardano il lavoro. Il primo quesito, con la scheda di colore verde, riguarda i lavoratori assunti dal 2015 nelle aziende con più di 15 dipendenti e chiede di ristabilire l'obbligo di reintegro dei lavoratori in tutti i casi di licenziamento illegittimo, come prevedeva fino al 2015 lo Statuto dei lavoratori. Oggi la legge prevede invece un risarcimento fino a 36 mensilità. Il secondo, con la scheda di colore arancio, riguarda le aziende con meno di 16 dipendenti. Attualmente la legge prescrive che, in caso di licenziamento illegittimo, l'indennizzo massimo sia di 6 mesi di stipendio, un limite che scomparirebbe in caso di vittoria del sì, lasciando maggiore libertà ai giudici nel calcolo del risarcimento. Il terzo, con la scheda di colore grigio, punta a limitare l'utilizzo dei contratti a termine. Attualmente si possono accendere contratti fino a 12 mesi senza specificare perché si utilizza quel tipo di contratto. Se vince il sì, l'obbligo ritornerebbe anche in questi casi. Il quarto, con la scheda di colore rosa, chiede la cancellazione di alcune norme per fare in modo che, in caso di infortuni di lavoratori delle ditte in appalto, eventuali responsabilità siano riconosciute anche alle ditte committenti, che ora rispondono solo per i rischi cosiddetti generici. Non riguarda il lavoro, ma il diritto di cittadinanza. Invece il quesito numero 5, con la scheda di colore giallo, punta a ridurre da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza necessario per i cittadini extra UE per ottenere appunto la cittadinanza italiana. Perché i referendum siano validi occorre che vada a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Se non verrà raggiunta questa quota, che in termini tecnici si chiama quorum, rimarranno valide le norme che già esistono. Si potrà votare domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 18 gradi, Gorizia 22, Udine 20,5, Pordenone 19, Tolmezzo 19, Forni di Sopra 18,5, Tarvisio 17, Piancavallo 16,5, Sappada 15, Monte Zoncolan e Monte Lussari 12, Lignano 22, Grado 19,5. Queste le previsioni. Dalle ore centrali un generale aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci o temporali, che potranno proseguire in modo intermittente anche in serata e nella notte successiva. Venti di brezza. Per domani, invece, nella notte fino al mattino, cielo in prevalenza nuvoloso con residue piogge sulla zona montana. Dalle ore centrali schiarite, specie verso la costa, mentre sulla zona montana saranno ancora possibili rovesci sparsi o temporali, che potrebbero localmente interessare anche la fascia orientale della regione regione, al confine con la Slovenia. Prefettura e Vigili del Fuoco di Gorizia hanno presentato l'iniziativa di formazione e informazione dal titolo Carso non Arso, nato dopo gli incendi del 2022 e giunta alla terza edizione. Alle 10 un incontro rivolto agli studenti all'ISIS Galilei. Salgono sui mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile, provano a spegnere dei piccoli incendi con gli attizzatoi, si cimentano con il getto degli idranti, gli studenti dell'ISIS Galilei di Gorizia stamattina per Carso non Arso, un'iniziativa di sensibilizzazione contro il rischio di incendi boschivi nata 3 anni fa dopo che il Carso fu devastato dalle fiamme a luglio del 2022. Ne parliamo con la comandante dei vigili del fuoco di Gorizia, Cira Piscicelli. I ragazzi naturalmente sono il primo anello della società perché naturalmente hanno una vita davanti e soprattutto fra di loro, parlando con altri ragazzi che magari non sono presenti a questa attività, possono appunto diffondere le nozioni principali per far sì che la sicurezza sia il primo anello vincente della nostra società. Quali sono le azioni dei vigili del fuoco contro gli incendi, in particolare se vengono rafforzate durante l'estate? Durante l'estate naturalmente noi veniamo rafforzati con squadre aggiuntive e quindi possiamo naturalmente intervenire in particolar modo dove le zone sono più interessate da questi fenomeni. Abbiamo il caso che è un territorio particolare per orografia, per vegetazione e quindi è importante avere squadre vicino ai luoghi in modo tale che possano intervenire in tempi veloci. I problemi che portarono agli incendi del luglio del 2022, ricordo le scintille dei treni anche oltre alla siccità di quell'estate, sono alle spalle? Sicuramente possiamo dire che alcuni passi sono stati fatti avanti perché naturalmente le varie campagne di sensibilizzazione sono state effettuate, ma sicuramente il territorio sta crescendo proprio con questi aspetti, appunto della sicurezza e della salvaguardia del territorio. Gorizia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È entrata in vigore la modifica ai disciplinari produttivi del prosciutto di San Daniele, che prevede l'innalzamento del peso massimo della carcassa dei suini impiegati nella produzione delle denominazioni da 168 a 180 kg. Ora il comparto potrà contare su una maggiore disponibilità di suini e di cosce fresche, con una pezzatura importante, idonea a supportare le lunghe stagionature. Soddisfatto Silvio Marcuzzo, rappresentante degli allevatori di suini dell'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, per queste modifiche che, dice, vanno nella direzione giusta del miglioramento della qualità della coscia destinata alla lunga stagionatura, fiore all'occhiello della produzione suinicola italiana. Un prosciutto profumato, continua, si ottiene da animali maturi e pesanti, alimentati a base di cereali. Le precedenti norme di produzione si riferivano ad animali cresciuti in condizioni sia di allevamento sia ambientali molto differenti. Purtroppo negli anni scorsi si è vissuta una fase di transizione disordinata, tumultuosa, che ha fatto palesemente emergere l'inadeguatezza dei vecchi regolamenti. Siamo dispiaciuti come allevatori, conclude Marcuzzo, della confusione creatasi soprattutto tra i consumatori, con l'auspicio che in futuro ci sia un adeguato confronto tra tutti gli attori della filiera con la collaborazione delle istituzioni. Prende il via oggi la 14ª edizione del Master Universitario Interateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè, ideato da Il Caffè, Fondazione Ernesto Illy, per offrire una preparazione completa sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè conducono al prodotto finale. Il Master, rivolto ai giovani laureati in Economia, Ingegneria e Scienze Agrarie, è per 25 studenti di 18 paesi. Il programma didattico prevede oltre 430 ore di lezione erogate da 60 docenti inizialmente da remoto per proseguire in presenza. Affiancano Illy Caffè, la Fondazione Ernesto Illy, le Università di Trieste e di Udine, la Sissa e l'area di ricerca. Confermata anche per questa edizione una borsa di studio da parte della Fondazione Friuli e il sostegno finanziario della Fondazione CR Trieste. Sono 16 gli studenti che beneficiano del supporto economico che la Fondazione Illy offre ogni anno, 10 studenti del contributo integrale e 6 di quello parziale. Dalla prima edizione il Master in Economia e Scienza del Caffè ha coinvolto più di 272 alunni provenienti da oltre 30 paesi, contribuendo alla creazione di figure professionali specializzate nel caffè e interessate ad applicare un approccio etico e sostenibile. Lo sport, il calcio, con Udinese Fiorentina persa dai friulani per 2-3, è calato ieri sera il sipario sull'Era Pozzo. Non c'è la vittoria, ci sono però gli applausi per l'Udinese al momento dei saluti. La sconfitta con la Fiorentina è l'ottava nelle ultime 10 giornate, ma il KO, dopo il vantaggio di Lucca, nasce dall'espulsione per doppia ammonizione di Biol. Due cartellini gialli, quantomeno discutibili. Poi sono arrivate le reti di Fagioli e Comuzzo, ventenne di San Daniele, che ha scelto il Friuli per segnare il suo primo gol in Serie A. Il pareggio di Cabasele rimette in salita la strada verso la Conference League della squadra di Palladino, fortunata quando Ken trova la deviazione di Zemura per festeggiare il sesto posto finale in classifica. L'Udinese invece chiude a quota 44 punti, dodicesima piazza, obiettivo salvezza certificato già a 10 gare dalla fine della stagione, l'asticella va alzata. Sentiamo Cabasele. Potevamo fare qualcosa di più, ma rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un passo davanti, è importante adesso di avere la stessa mentalità per l'anno prossimo. Per costruire l'Udinese che verrà si deve cominciare dal tecnico. La riconferma di Rugnaic sembra essere la scelta più logica. Dobbiamo ancora avere un dialogo molto chiaro, ma io comunque vorrei proseguire qui. Voglio analizzare quali saranno le sfide per il prossimo anno. In base a queste sfide bisogna fornire delle buone prestazioni per appunto iniziare bene la stagione e migliorare ancora di più a livello di gioco mostrato sul campo. Non giocheremo per lo scudetto, bisogna essere realistici, bisogna essere pragmatici. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentata questa mattina la nuova rassegna che prenderà il via il 6 giugno a Illeggio. I capolavori in mostra saranno più di 50, scelti per un nuovo viaggio di bellezza lungo 500 anni che parte dalla metà del 400 e giunge alla metà del 900. Ricchezza, dilemma perenne, il titolo della nuova mostra internazionale d'arte di Illeggio, tema intrigante quanto mai attuale nella vita umana e nelle odierne vicende del mondo, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, scelto per interrogare chi guarda e spingerlo a riflettere sui due effetti possibili, uno buono e l'altro malvagio, che il verbo avere genera nelle nostre vite, spiega il curatore e anima della mostra, Don Alessio Geretti. Ci sarà un Caravaggio, il famosissimo ragazzo morso da una lucertola, ci sarà Tiziano con due opere spettacolari e poi Rembrandt, Guttuso, Pellizio da Volpedo e Picasso con più di un'opera inedita fra le circa 20 anche di altri autori in arrivo da collezioni segrete finora mai rese accessibili al pubblico che i visitatori avranno l'opportunità unica di ammirare a Illeggio. Prestiti da collezioni private e musei di tutto il mondo che confermano l'indiscusso valore del piano scientifico della mostra, riconosciuto ormai a livello internazionale, una mostra che si preannuncia un nuovo miracolo dell'arte per il piccolo borgo della Carnia che una volta l'anno apre le sue porte al mondo. 40.000 i visitatori all'ultima sul tema del coraggio lo scorso anno, tra i quali anche il presidente della Repubblica Mattarella, quasi 1 milione quelli che si sono susseguiti per ammirare circa 1.500 opere esposte nei suoi 21 anni di storia singolare e unica. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E incomincia oggi la quinta edizione di Estoria Film Festival, la sezione cinematografica del Festival Internazionale di Storia di Gorizia, che quest'anno sarà dedicato al tema delle città. Sentiamo il curatore Adriano Ossola. La giornata inaugurale è segnata dalla proiezione iniziale alle ore 17 di un importante documentario realizzato proprio da Estoria sul Medioevo goriziano, un tributo alla nostra storia che ci accompagnerà in tutte le serate, visto che i documentari realizzati sono tanti e si dedicheranno dopo questo sul Medioevo ad altri periodi della storia goriziana, in particolare l'Otto e il Novecento. Ma poi ci sarà alle 20 il grande evento della proiezione di Metropolis legato al tema delle città di quest'anno, il tema portante dell'edizione tradizionale, con l'accompagnamento di Zero Orchestra. E vorrei ricordare ancora, diciamo, il secondo filone lungo il quale si muove l'Estoria Film Festival, e cioè quello della scoperta di film storici apparsi lo scorso anno a livello internazionale e o non passati nel circuito nazionale italiano o poco rappresentati. Ci può segnalare qualcuna delle tante proiezioni in programma? Direi che quella di martedì, cioè The Girl with the Needle, è una delle più significative, con la premiazione anche della sceneggiatrice Line Langebeck, un film danese che ha avuto una forte visibilità internazionale a partire da Cannes l'anno scorso fino alla premiazione dei premi Oscar di quest'anno, ed è un